questo bellissimo libro che mi ha ispirato tantissimo per la preparazione di questo intervento, perché in effetti mi piace occuparmi della casa, della famiglia. E per farlo bene è importante studiare. Quello un po' che ci diceva Paola Binetti alla fine della sua prolusione ieri. Bisogna ritagliarsi un tempo per studiare, un tempo per approfondire, un tempo per stare soli con se stessi. Penso che sia questo il segreto per essere una casalinga non disperata, ma una casalinga di successo. O comunque non una casalinga, ma comunque una donna che regge una casa e che ha a cuore la propria casa. Io vorrei partire dall'introduzione, dalla prefazione di questo libro, in cui l'autrice Barbara Negri. Si chiama La dimensione umana e familiare del lavoro della casa, un libro bellissimo che vi consiglio di leggere di cuore. Nella prefazione ringrazia sua mamma e mi colpisce tantissimo quello che dice di sua mamma. Vorrei mettervi a parte di queste parole perché veramente danno tantissimi spunti. Vorrei dedicare queste pagine a mia madre, donna eccezionale, con vocazione intellettuale, che ha dedicato la sua vita a mio padre, a noi sette figli e alla casa. Ricordo che da bambini eravamo gelosi vedendola con un libro in mano. Glielo strappavamo, reclamando tutte le sue attenzioni per noi e per le nostre prodezze infantili. Lei racconta sempre che quando si sposò non sapeva fare altro che leggere e studiare e sua madre sconsigliò vivamente mio padre dal prenderla in moglie perché sarebbe stato un pessimo affare. Per fortuna mio padre non l'ha pensata così. È riuscita a sorprenderci sempre. Dalla torta preparata perché se lo sentiva che avremmo preso un bel voto in un'interrogazione a scuola, alla zucca svuotata e piena di tortellini fatti in casa con la scritta per quello zuccone di Pietro il giorno della sua laurea. Ha creato tradizioni familiari, le torte personalizzate per ogni figlio il giorno di Pasqua, la festa di Ferragosto nella villa in campagna alla quale non mancava mai nessuno, le calze della Befana preparate in un certo modo. Le ore trascorse ad ascoltarci ripetendo le lezioni, a giocare con noi e a consigliarci i libri da leggere, non sono state più importanti di quelle trascorse a mettere in ordine e a pulire la casa perché fosse accogliente al nostro ritorno da scuola, ad imparare a cucinare e a fare dolci per prepararci una merenda succulenta. O le tante ore mattutine passate a stirare le camicie di tutti. Quante fatiche e quante rinunce. Ma anche quante gioie e soddisfazioni. Spesso mi sono domandata quali fossero gli ingredienti della sua vita e sono sempre arrivata a questa conclusione. Molto studio per capire i nostri problemi e aiutarci a trovare soluzioni. È un cuore grande e magnanimo che ha saputo darsi sempre senza dire basta, pensando al bene di tutti. Cuore grande e magnanimo, forse proprio per questo, diciamo, Nati ha trovato, che ringrazio, diciamo, di avermi invitato, questo bellissimo titolo, no, per questo intervento finale, aprire la casa e anche il cuore, perché dove c'è casa c'è cuore, non dove c'è Barilla c'è casa, che è il famoso slogan di qualche anno fa, ma dove c'è casa c'è cuore, dove c'è cuore c'è casa. E c'è il cuore di una donna che regge, no, le fila di questa casa. È pesante perché talvolta tutto ricade sulle nostre spalle, perché non ci sentiamo capite, non ci sentiamo aiutate, però quanta fatica e quanta soddisfazione, dice Barbara Negri, e quanto bene dalla nostra casa, curando bene la nostra casa e le persone che stanno dentro si può fare, che servizio stupendo alla società, formando bene i nostri figli e facendo sì che la nostra casa sia veramente un luogo in cui tutti stanno bene. La casa è il luogo dell'intimità, in cui un cuore batte, lotta per essere più generoso, si supera nel fare il bene agli altri e per non dire mai basta, anche se a volte ci verrebbe proprio di urlarlo. Come diceva Lucia Vassallo ieri nell'intervento che ha fatto alla Binetti, ce ne andiamo qua piene di grandi propositi, sullo sguardo, sull'altro, sulla bellezza del nostro lavoro, però poi quanta fatica, la routine, quanto ci pesa, questa corsa fra frenetica di cui si parlava anche stamattina, le cose che, le mille cose che abbiamo da fare, la spesa, il lavoro, i bambini, la danza, il catechismo, veramente si arriva alla sera sfiniti, stremati, però dobbiamo fermarci almeno 10 minuti al giorno, perché se non ci fermiamo 10 minuti al giorno e se non riflettiamo, non ripensiamo alla, a quello che abbiamo fatto, non diamo senso a quello che abbiamo fatto, veramente diciamo rischiamo di dire basta e di distruggere la nostra casa e la nostra famiglia. La casa rispecchia il cuore di ognuno, è un bisogno del cuore, è il luogo del relax e della libertà, è il luogo in cui si può essere pienamente se stessi, senza schemi né convenzioni. Possiamo permetterci di andare in giro senza trucco, vestite tra virgolette da casa, no? In maniera poco formale, in maniera in cui ci sentiamo comode, libere. È il luogo in cui impariamo a relazionarci e a comunicare, è dove il cuore impara a voler bene. E infine anche il cuore è il luogo in cui ognuno di noi acquisisce una coscienza sociale, nel senso che attraverso un'educazione alla responsabilità, no? Il piccolo incarico di cui si parlava, non mi ricordo se ieri o stamattina, o la corresponsabilità, cioè stimolare i figli a sentirsi un pezzetto di casa sulle spalle, poi uscendo diciamo nel mondo del lavoro, quando diventeranno grandi, prenderanno in carico un pezzetto di società, e quindi quello che hanno imparato dentro casa, le virtù che hanno imparato dentro casa, il senso di responsabilità che hanno imparato dentro casa, lo trasferiranno anche fuori nella società. E ci tenevo a fare una piccola parentesi, perché diciamo io sono dell'opera da 16 anni e attraverso l'opera, attraverso lo spirito dell'Opus Dei ho imparato tanto e sono cresciuta tanto in questo, anche in questo sentimento della casa. San José Maria diceva proprio che l'Opus Dei è una grande famiglia e ci teneva che i centri dell'opera non fossero, siamo qua, siamo ad un convegno, abbiamo anche usato toni accademici, ospiti d'eccezione, onorevoli parlamentari, però non siamo in un centro convegni, cioè siamo in una casa, cioè io non so se voi avete avuto questa percezione. Però l'arredamento, lo stile, il clima, e così è il Catania a Catania, così è la Rume a Palermo, che nonostante è una residenza universitaria, non è il, diciamo, il pensionato San Saverio, ma è una casa per chi la abita. È proprio perché lui credeva che la casa dove c'è uno spirito di famiglia non può non esserci questo calore di casa. Abbiamo appunto detto tantissime cose belle della casa, stamattina addirittura ci riportava la dottoressa Nicotra le statistiche dell'Università di Pisa sui successi degli studenti che hanno diciamo una vita di casa tra virgolette sviluppata, che pranzano con i genitori, che sono quelli che portano più successi a scuola, sono meno esposti a comportamenti devianti, a compagnie poco raccomandabili. Però paradossalmente assistiamo a livello proprio socioculturale, veniamo spinti a stare sempre più fuori casa, a mangiare fuori casa, a festeggiare i compleanni dei nostri figli fuori casa, tutto fuori casa, tanto mondo pubblico e poco mondo privato. Si tende veramente a pubblicizzare tutto, la nostra vita, e penso che anche una lettura di questi, nello sviluppo di questi social network, pensa a Facebook, nasce proprio anche da un esibizionismo che certe volte veramente lascia perplessi. Cioè io vedo fotografie di pose, di costumini, cioè le ragazzine, dovete stare veramente, io grazie a Dio ho ancora bambine piccole, quindi... Però vedo per esempio mia nipote, queste foto con questi rossetti, queste diciamo pose veramente inquietanti certe volte. Dico, consiglio a mia cognata di stare attenta a mia nipote, perché in effetti certe volte per questo bisogno esasperato di consenso, per questo bisogno esasperato di esistere nella dimensione in cui io ho più di tine messe così, no? Più mi piace, nella dimensione in cui io sono più vista, pubblico più cose, sono quella che parla di più, allora valgo di più.